gasolio, lume, para affari. Un uomo a molte possibilità, dipende dalla voglia che hai tu, che hai tu. Se non fai niente nulla tornerà, non si lascerà. Questa vita è un destino. Un uomo a molte possibilità, dipende dalla voglia che hai tu, che hai tu. Se non fai niente nulla tornerà, non si lascerà. Questa vita è un destino. Varie immagini mi scorrono davanti al finestrino, mi ricoprono i pensieri di un passato a me vicino. Mi riportano lontana, rientro nel mio cammino. Ne guardo la sfumatura ma con gli occhi di un bambino. Ritorno a casa e se la invasa io la libero, convinto che la libertà sia forte come un albero. Provo nostalgia distante da casa mia, ma ritornerò da uomo nel duomo della pazzia. Con la valigia usata dopo questo viaggio, porso il mio bagaglio e dopo varco la soglia. L'uomo che viaggia scoprendo acquista il coraggio, oltrepassa la barriera e la frontiera anche se sbaglia. Ma senza casa allora viaggerà da nomade, così lui sarà accolto da leggi che sono scomode. Oltre che demode, noiose come un tic, meglio vivere nel mare e nuotare alla Moby Dick che restare nella fogna e sognare un posto più chic, svuotando la sua vita mezza vuota come un brick. E adesso pensa, il viaggio non è partenza, ma anche il suo rientro nel luogo di provenienza. Soprattutto quando vuoi ridare la speranza, un luogo che ha smarrito lo spartito e la sua essenza. Un uomo ha molte possibilità, ma dipende dalla voglia che hai tu. Se non fai niente nulla tornerà, non si lascerà. Questa vita è un destino. Un uomo ha molte possibilità, ma dipende dalla voglia che hai tu. Se non fai niente nulla tornerà, non si lascerà. Questa vita è un destino. Con uno spostamento d'aria varia la destinazione, ogni ambiente nuovo è una motivazione. Tanti saluti, perdo fluidi su steppe secche, va bene se la